24 mattino. Buongiorno, bentornati, Luca Telese. Incominciamo la fase delle grandi interviste. 800 24 00 24, le interviste sull'attualità. Numero SMS per scrivere 349 238 6666, come sapete. E saluto qui al telefono il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che è uno che si sveglia presto la mattina, di solito, no? Alle 6, sì, perché ha due vite, una delle quali è anche produttore di vino, vero? Oggi è in corso la vendemmia. Ah, con davvero? Con qualche problema. Cioè? La vendemmiatrice meccanica non riesce a staccare i grappoli, quindi bisognerà vendemmiare a mano. Ma è una metafora sulla difficoltà della coalizione nel centrodestra, oppure è proprio accaduto veramente? No, è una cosa seria, è molto più seria di quello che sta succedendo in politica. E quando si deve vendemmiare a mano sono... Ma come fate? Quindi sono quintali. È faticoso, bellissimo ma faticoso. Il vino si chiamerà, se non sbaglio, se non mi tradisce, Mater Divini Amoris, vero? Sì. Quanto costerà la bottiglia? Ah, non lo so. Come non lo so? Il produttore non sa. È ancora lungo. Poi bisogna trovare chi lo compra. Intanto, ecco, questa è una bella metafora. Bisogna che sia buono. Perché se non è buono, non lo compra nessuno. Questo sicuramente. Vorrei cominciare commentando questa notizia che è su diversi giornali, ma con particolare rilievo su Repubblica. Molti ascoltatori si sono arrabbiati anche con una motivazione, diciamo così, laica. Intesa governo Vaticano, sia lo Ius Soli entro l'anno. C'è un retroscena di De Marchis che racconta com'è nato l'accordo fra Gentiloni e la Santa Sede, e la notizia dell'incontro che ha propiziato e reso evidente a tutti questo accordo fra Minniti e Monsignor Ravasi. Che cosa ne pensa Renato Brunetta? Intanto non so se sia vero o non vero, ma la cosa... No, l'incontro è accaduto, tocca, veramente? Mi tocca relativamente. Io penso che l'Italia sia uno Stato sovrano e che non ha bisogno di fare accordi né espliciti né impliciti con... uno Stato straniero? Uno Stato straniero. Ci basta il concordato. Basta e avanza il concordato e i patti lateranensi. Detto questo, facciano pure... lo dico in maniera un po' provocatoria, perché se il governo forzerà sulla Ius Soli, ci sarà una grande battaglia democratico-parlamentare e nel paese, e la sinistra e il PD... Cioè potreste fare, tradotto, potreste fare anche ostruzionismo? Tutto quello che si può fare secondo le regole democratiche. E quindi anche l'ostruzionismo? Tutto quello che si può fare secondo le regole democratiche. E quindi anche l'ostruzionismo? E tutto quello che si può fare secondo le regole, se vuole andiamo avanti fino a domani. No, ho capito, non me lo vuole tutto dire. Tutto quello che si può fare, che ci ha insegnato la sinistra a fare in Parlamento, democraticamente secondo i regolamenti. Punto primo, se ci sarà questo il Paese sarà informato di quello che sta succedendo, e siccome tutto questo avverrà di fatto in campagna elettorale, sarà un buon viatico per la campagna elettorale. Semmai la legge, con grandi forzature, fosse approvata, sarà approvata, immediatamente procederemo alla raccolta di firme per il referendum abrogativo durante la campagna elettorale. Ecco, credo che questo comportamento democratico, serio, di trasparenza, di comunicazione nei confronti del Paese in campagna elettorale, spingerà la gente a chiedersi dove stare, se da una parte e dall'altra. Ma sul tema specifico delle migrazioni clandestine, o se stare dalla parte di chi vuole preservare la società, lo stile di vita italiano. Però sul tema specifico dello Ius Soli, mi scusi, naturalmente considerando che il nostro è un paese accogliente, che il nostro è un paese democratico, che il nostro è un paese che ha 5 milioni di immigrati e che solo una parte di questi sono regolari, solo una piccolissima parte di questi lavora, e che il costo di questa immigrazione, ahimè, come dire, caotica, che si è accumulata nel tempo, è un costo che subisce l'intera società italiana. Allora, Franco da Milano, esperto di enologia, le dice: guardi che verrà più buono facendolo a mano. Lo so, però voglio dire, si tratta di quintali. Stiamo parlando del vino. Ma lo so anch'io, è anche più bello, più buono, è enologo, più intelligente. Ha ragione, è solo che ci sono delle condizioni anche di tipo climatico. Non sappiamo quanto duri il tempo. Buono, certo. E quindi vabbè. Ma le volevo chiedere, lei che è di tradizione laica e socialista, sul tema specifico dello Ius Soli è contrario a come è formulato questa legge o contrario in assoluto? Cioè, parliamo di tanti ragazzi che sono nati, cresciuti in Italia, fanno anche un ciclo scolastico. Su che cosa lei, ma dico in particolare Renato Brunetta, non è d'accordo? Le regole, bisogna spiegarle bene agli ascoltatori, le regole che già ci sono per questi ragazzi già prevedono tutti i diritti: la scuola, la sanità, i percorsi di apprendimento, il lavoro, e prevedono anche la cittadinanza, una volta compiuta la maggiore età, sulla base della permanenza in Italia per un numero di anni considerato congruo, che sono 10. Quindi questi ragazzi che parlano toscano, che parlano veneto, che parlano siciliano, che vanno a scuola, che tifano la Juventus piuttosto che Milan, sono già perfettamente integrati nella società italiana, a prescindere dalla loro condizione padre, madre, nascita, eccetera, eccetera, perché il paese, il nostro paese, è un paese civile e non, come dire, rifiuta nessuno. Quindi lei dice tecnicamente adesso, non serve. Mi scusi, già adesso l'integrazione c'è, già adesso questi ragazzi, stiamo parlando di 800.000, un milione di persone, questi ragazzi e ragazze che già vivono nel nostro paese, come dire, hanno tutti i diritti, e questa regola dei 10 anni e della cittadinanza alla maggiore età è una regola, come dire, che io considero molto civile. Mi chiedo se in questa particolare congiuntura socio-politico, storica, che sta vivendo il nostro paese, l'Europa che gira la testa dall'altra parte, gli sbarchi che tra l'altro sono ripresi, i disperati, i mercanti di esseri umani, la Libia, la pressione demografica dell'Africa, ma non solo dell'Africa, nei confronti dell'Europa, questi fenomeni di disperazione che usano tra l'altro le regole civili dell'Occidente, come la richiesta di asilo, che è una sacrosanta, straordinaria regola per nascondere la migrazione economica. Bene, mi chiedo se in questa particolare congiuntura dare un segnale per cui un milione di persone con una legge diventano sic et simpliciter italiani con la cittadinanza senza il percorso che storicamente il nostro paese ha garantito a tutti quelli che risiedono, io lo credo un errore. In più, la legge è scritta male, la legge si presta a mille abusi, quindi per ragioni di contenuto, per ragioni di opportunità, per ragioni per le quali la società italiana è profondamente divisa su questo tema, vorrà dire pure qualcosa che la società italiana, secondo tutte le indagini demoscopiche, dice di no allo Ius Soli. Vorrà pure dire qualcosa. Bene, voglio fare un'altra domanda però. Sì. Mi faccia finire. Che la gente ha paura. Che la gente ha paura. Allora, di fronte a tutto questo, può un partito o una compagine parlamentare di fatto minoritaria su questo tema nel paese fare una forzatura sulla base di che cosa? Secondo lei no. Di un accordo Italia-Stato-Vaticano. Su, via, siamo seri. Allora, l'altro grande tema è lo strappo fra Bossi e la Lega. Tempo fa Berlusconi disse: se serve lo candidiamo noi. Parlava di Bossi, ovviamente. Lei sarebbe favorevole o contrario, qualora Bossi uscisse dalla Lega, a ospitarlo, dargli una, come dire, una candidatura simbolica nelle vostre liste? Ma intanto, per me c'è amarezza per quello che è successo ieri a Pontida nei confronti di Umberto Bossi. Comunque si possa giudicare la storia di Bossi, è certamente un fondatore, è certamente un simbolo. Pontida è Bossi, come ha detto Maroni, e non far parlare Bossi a Pontida e di fatto considerandolo un corpo estraneo mi sembra un atto di debolezza e di fragilità della nostra. Lo chiederemo a Salvini fra poco, ma lei sarebbe disposto o no a dargli asilo? Vede, non dipende lo ius bossi. Non dipende. Non no, l'ha detto Berlusconi, lei è favorevole o contrario? Ma lei lo chiede a me. Sì. Le sto dando la mia risposta. Sì. Viva Dio, un'autonomia di pensiero e di ragionamento, o no? Sì, e qual è? Sì, benissimo. Allora, io le sto dicendo, amarezza per il comportamento tenuto da Salvini nei confronti di Bossi. Io sono d'accordo con Maroni, deciderà Bossi cosa vorrà fare del suo futuro e della sua vita. Per quanto ci riguarda, braccia aperte nei confronti di tutte quelle componenti del centrodestra, di tutte quelle componenti del centrodestra che vogliono trovare in Forza Italia un punto di approdo. E questo è un concetto un po' più largo. Quindi è una porta rispetto, non chiusa. Rispetto a Bossi. Perché vuol dire che Forza Italia è un partito, un movimento, un modo anche di vivere la politica, aperto, accogliente, senza discriminazione. Abbiamo sempre detto che noi siamo un partito monarchico e anarchico. Bene, in un partito monarchico e anarchico non ci sono espulsioni. Ma tanta accoglienza. Bene, il tempo, devo dare la pubblicità. Vabbè. Grazie però. Che escludiamo è il ritorno dei traditori, tutto qua. Bene, monarchico, anarchico e severo. 8:30, ci fermiamo per la pubblicità e arrivano il gattone Oscar Giannino e Matteo Salvini. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. E allora buongiorno, bentornati 24 mattino, al telefono un radiofonico di lunga esperienza oltre che un leader politico che è Matteo Salvini. Buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta. Quando entrò per la prima volta nella Radio Padania? 20-25 anni fa. E il grande Oscar Giannino presente dalla redazione di Milano. Eccoci qua, un saluto a te agli ascoltatori e un abbraccio a Matteo Salvini. Allora, io vorrei cominciare subito da Salvini per chiedergli una notizia, ovviamente sul caso del giorno e su tutti i giornali, l'apertura, il titolo, il dialogo che è avvenuto poco prima del comizio di Pontida fra Umberto Bossi e lei nel retropalco. Umberto, sarebbe il caso, sarebbe meglio che non parlassi, e Bossi amareggiato che dice io me ne vado. Secondo lei gli ascoltatori stanno fremendo dalla voglia di sapere i contenuti della chiacchierata di ieri o hanno altre preoccupazioni? Io le rispondo. Parleremo di tutto, però è il caso del giorno, il fondatore della Lega, è giusto o sbagliato? Rispondo volentieri, ma siccome ieri abbiamo parlato di lavoro, di tasse, siccome sto uscendo per andare in fiera a Milano dove ci sono 1600 espositori, imprenditori che resistono alla fiera della calzatura, della pelletteria, ieri di quello abbiamo parlato a Pontida, di come con la Lega al governo vorremmo rendere più sicuro il mestiere di chi lavora e di chi fa impresa. In quest'ottica ieri hanno parlato un sindaco a nome dei centinaia di sindaci della Lega, Susanna Ceccardi, il primo sindaco leghista in Toscana, a Cascina, che sta lavorando molto bene. Hanno parlato i tre governatori, Toti della Liguria, Maroni e Zaia del Veneto, raccontando come si può spendere meno e spendere meglio il denaro del contribuente. Tutte le statistiche dicono che Lombardia e Veneto sono fra le migliori d'Europa, e ha parlato al segretario del movimento, cioè lei. Un movimento che qualcuno vorrebbe imbavagliare con una sentenza. Ne parliamo fra un attimo, ma chiudiamo bizzarra, solo. Come dice il giudice Nordio, e quindi siccome la voce doveva essere una, al di là dei governatori e dei sindaci, o facevo parlare tutti, e i capigruppo alla Camera, e i capigruppo al Senato, e qui e là, allora ho detto parlo io, non perché sono un genio, ma perché penso di poter ben riassumere i sentimenti e le idee e il cuore di tutti i dirigenti della Lega, e quindi tutti mi hanno detto hai ragione, Bossi ha detto che racconto balle, che tradisco il Nord, che non capisco un accidente, che bisogna allearsi per sempre, per tutta la vita con Berlusconi, che non devo occuparmi di quello che succede da Roma in giù, che l'Europa non si tocca, e ha una visione diversa della Lega che che milioni di italiani stanno seguendo. E se andrà via le dispiace? Ma certo che mi dispiace. Certo che mi dispiace, però evidentemente qualche errore in passato è stato commesso, e limitare la propria azione politica alla mia Milano, a Verona, a Cuneo non ha senso. L'Italia dà una risposta se rilancia le infrastrutture del sud, i porti del sud, le aziende del sud non possono competere con il resto del mondo se per trasportare le loro merci pagano il doppio, se l'energia la pagano il doppio. Io cosa dico? No, guarda, sono leader della Lega, me ne frego di quello che succede in Abruzzo e in Puglia, dai, siamo seri. Allora, Oscar, e poi vorrei parlare della vicenda giudiziaria, che è molto importante. C'è anche un'intervista di Tremonti tecnica su questo tema. Anch'io antepongo invece questioni secche con Matteo, se riesci, se no, perché te le metto tre insieme. Vai. semplici. Primo, se come alcuni dicono Renzi si rifà vivo tra poco dicendo riparliamo di maggioritario Rosatellum, la Lega da sola, la Lega, non dico Berlusconi, la Lega dice sì o dice no, le Olimpiadi invernali al 2026 di cui ha parlato Sala, la Lega se potesse che contasse a Milano, l'ha lanciata ieri come idea. Olimpiadi invernali a Milano. Al 2026, sì, Milano e la Lombardia. Tu diresti sì o no? In Lombardia sì, a Milano è difficile. Beh, ma la Sala parlava della Lombardia, voleva sentire tutto. Però la terza cosa bene, più seria. Le montagne lombarde sono stupende. Ecco, allora, impegno mettiamo a verbale. La terza cosa più seria. Questi giorni il PD, il governo dice che vuole prepensionare 500.000 di statali che sono lontani dalla pensione di qui a 4 anni e bandire prima delle elezioni un mega concorso unico nazionale di cui non conosciamo neanche le procedure per 500.000 persone. Io sono senza parole per quanto è scassa conti questa roba, ma voglio sapere, la Lega è favorevole, farebbe la stessa cosa? Se la fanno assolutamente contrario. Ecco, perché? Non è coi bonus, i regali o gli assumifici e la buona scuola che si rilancia il paese ha bisogno di merito. La buona scuola sta distruggendo il nostro sistema educativo e scolastico ed è una delle prime leggi che cambieremo. Allora, parliamo della vicenda giudiziaria, no? Oggi c'è un'intervista di Tremonti, la citavo, al Libero, che dice che non sta insieme dal punto di vista giuridico, secondo lui, la gravità, diciamo, l'entità della cifra che si vuole sequestrare e l'entità della cifra che è sospetta di essere stata o che ai sensi della condanna è stata accaparrata dal vecchio tesoriere. Allora, la domanda che faccio a Salvini prima della risposta politica che abbiamo sentito dal palco è: tecnicamente come va questa sentenza qui? Che cosa è secondo lui? Sa qual è la follia? Che si dice 500.000 euro della Lega, ma capita ogni giorno a tanti artigiani, imprenditori, liberi professionisti, che noi stiamo parlando sui giornali di qualcosa che io non conosco, perché a me notificano l'atto del Tribunale di Genova oggi pomeriggio alle 15. Cioè ci hanno sequestrato i conti che non avevano denaro del finanziamento. Sono già tutti bloccati, lo avete verificato? Tutti bloccati. Cioè la Lega in tutta Italia non può toccare un euro? No, ma non è che hanno bloccato i soldi sul conto, come se all'artigiano X o al piccolo imprenditore Y che ha dei problemi con la banca bloccano il conto e poi vediamo cosa succede. Hanno portato via tutti i soldi che c'erano, non c'è più una lira. Senza una sentenza di condanna in via definitiva e senza che io sappia nulla, perché mi notificano l'atto 4 giorni dopo aver prosciugato i conti, che ripeto non hanno denaro del finanziamento pubblico, quindi di chi ci ascolta, perché non esiste più da almeno 2 anni, io da segretario non ho preso una lira del finanziamento pubblico, sono tutti contributi volontari degli elettori, dei simpatizzanti, dei militanti, degli iscritti. Quanto hanno rastrellato più o meno? Cosa hanno fatto? Perché non me l'hanno ancora detto, me lo dicono dopo averlo fatto. È questo che in Italia non funziona. Quanto non hanno rastrellato? Che in Italia, che la banca o che lo Stato prima proceda e poi ti racconti che cosa intende fare. Ma non ne ho idea, perché non me l'hanno neanche comunicato. Potrebbero essere 100.000 euro, potrebbe essere 1 milione di euro. Io vi posso solo dire che sui conti della Segreteria Federale c'erano 30.000 euro. Quindi se cercano 48 milioni probabilmente devono andare in Montepaschi, in Banca Etruria, in Veneto Banca o da quelle piazze lì a sequestrarli, perché da noi non li trovano. Ma è il principio che non esiste. Allora, non può in Italia esserci uno Stato di diritto dove tu blocchi un imprenditore, un artigiano, un camioncino, un'azienda, e poi una settimana dopo gli spieghi perché l'hai fatto e forse hai sbagliato, ma vedremo. Ma è una roba da matti. Allora, Mario Giordano sulla Verità di sabato, di domenica anzi, e Tremonti oggi sul Libero dicono, ma c'è un assurdo giuridico, perché la sentenza di Milano parla di 500.000 euro di soldi appropriati indebitamente, e perché si arriva a sequestrare 49 milioni, che è il totale degli importi percepiti in tutti gli anni dal finanziamento pubblico della Lega. È vero che lei non ha i documenti, ma pensa che il criterio seguito sia stato questo? Chiedetelo al Tribunale di Genova, non so cosa dire. Detto questo, noi possiamo andare avanti a portare in giro per l'Italia le nostre idee anche con le tasche vuote, come stiamo facendo e come abbiamo fatto in passato, perché se hai buone idee vai avanti. Ieri poi i giornali parlano di Bossi, di immigrazione, ma ieri abbiamo parlato di eliminazione degli studi di settore, di spesometri, redditometri, di merito. Ieri sul palco c'era il presidente regionale, è una piccola cosa che non finirà mai sui giornali, però ci tengo a lasciarla qua su Radio 24 gli atti. C'era il presidente regionale lombardo dell'Unione Italiana Cechi, che mi ha detto una cosa che non sapevo e che su cui fanno battaglia, sono pochi spiccioli nella prossima manovra economica. Chi ha un cane guida per cieco in Italia, e sono non più di 1000 persone, ha un rimborso di 516 euro all'anno, fermo dal 1986. Ora vi par normale che chi è già in difficoltà debba elemosinare il raddoppio di questa indennità? Quindi saranno queste le nostre battaglie, le faremo con io e senza soldi, e le faremo senza soldi, le faremo grazie a Radio 24, le faremo grazie ai manifesti, le faremo con Facebook, le faremo così. Si pente di non aver, di non essersi costituito parte civile? Qualcuno dice la Lega viene punita perché nel processo contro Bossi e contro il vecchio tesoriere non ha preso la parte civile contro coloro che avevano danneggiato la Lega? Ma a Milano ci siamo costituiti parte civile, e poi ritenevamo che il processo fosse così fondato sul nulla che non se ne fosse la necessità. Adesso evidentemente, visto che avevamo sbagliato in una sentenza del genere, gli avvocati mi hanno detto che c'è solo un precedente storico ed è in Turchia, con un partito con i conti sequestrati, le sedi chiuse, messo fuori legge, e che io pensavo che l'Italia fosse diversa dalla Turchia, sbagliavo. Peraltro la giustizia italiana ci mette 8 anni mediamente per dare la sentenza su un processo civile, a 3 milioni di processi penali in arretrato, quindi al di là delle sventure di Salvini, che va avanti lo stesso, vincerà lo stesso e di cui gli ascoltatori possono interessarsi più o meno, una riforma della giustizia con magistrati che lavorano di più e meglio e con tempi certi per i processi e finalmente con la responsabilità civile di chi sbaglia, rovina persone, chiude aziende e poi senza chiedere scusa cambia sentenza dopo 5 anni, ecco, una giustizia più normale in Italia serve. Senta, Salvini, risposta secca anche qua, ma vista la premessa sulla condanna, io stesso ho fatto trasmissioni e senza precedenti questa cosa pone seri problemi, il sequestro dei conti, ma visto quello che ci ha detto sui magistrati, secco, condivide il giudizio di Renzi che si sia trattato di un golpe da parte di pezzi di Stato segreto in relazione all'inchiesta Consip che lo ha lambito, sì o no? Perché? Perché quando Renzi è toccato è un golpe, quando toccano gli altri hanno ragione i magistrati, io non cambio idea ogni quarto d'ora, quindi no, fortunatamente è pieno di magistrati che fanno bene il loro lavoro, è pieno di giudici che fanno bene il loro lavoro e rischiano la vita. Renzi ormai è nel pallone, è malato di protagonismo, quindi penso che la sua parabola sia finita. Salvini, notizia di apertura di Repubblica ma di tanti giornali, intesa fra governo e Vaticano, colpo di scena rispetto a quello che abbiamo sentito nei giorni scorsi, sì allo Ius Soli da votare entro l'anno, che ne pensa? Ma sa perché questa legge non serve? Lo dico agli ascoltatori perché l'ho scoperto anch'io con stupore, perché l'anno scorso e l'anno prima, 2016-2015, sapete qual è il paese europeo che ha concesso più cittadinanze agli immigrati? L'Italia, a normativa vigente negli ultimi 2 anni, siamo il paese europeo che ha dato più cittadinanze a cittadini stranieri e anche ai minori. Quindi serve questa legge perché siamo gli ultimi in Europa? No, siamo i primi in Europa. Io difendo il principio. E dell'intervento del Vaticano che pensa? Anche il Vaticano si occupi di anime, si occupi come fa e bene di anime, di organizzare le parrocchie, gli oratori, che se non ci fossero sarebbe un disastro, però io penso che sia uno Stato diverso da quello della Repubblica italiana. È stata un'ingerenza, secondo lei? No, ma io penso che siano ricostruzioni giornalistiche. Ci sono alcuni giornali come Repubblica che stanno facendo da 3 mesi questa campagna per lo Ius Soli, che non solo non interessa agli italiani, ma non interessa neanche agli immigrati. Io ne conosco tantissimi che dicono: fatemi pagare meno tasse, andatemi a far prendere la metropolitana più sicuro, non voglio la cittadinanza in omaggio. Abbiamo la pubblicità brevissima, grazie a Matteo Salvini, e adesso arriva il momento delle opinioni con Oscar. Mattino. Cani e gatti, le mie opinioni, le opinioni di Oscar Giannino, compagno di battaglia in questo spazio, e le opinioni degli ascoltatori. Sentiamo subito Andrea da Verona. Pronto? Eccoci. Ah, ciao. Ciao a tutti. Niente, volevo velocemente dire una cosa. Sentivo Brunetta prima, no? Che ha detto che in Italia ci sono 5 milioni di immigrati e che praticamente sono tutti qui abusivamente e che nessuno lavora, perché non mi sembra di esagerare quello che dico, e a me sembra una cosa inverosimile. Beh, cioè, che nessuno lavora. Già, cioè, beh, io nessuno io lavora e diciamo con i dati che ci sono è un no, po', no. È un po'... Adesso, io l'ho sentito dire, non sbaglio, vero? Ha detto Brunetta. E io giro per fabbriche, giro per tantissimi posti e vedo un sacco di immigrati fare un sacco di lavoro e farci anche un mazzo tanto. Ecco, solo questo volevo dire. Bene, grazie. E Oscar Giannino, su questo sentiamo subito la tua ma voce. Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Matteo Salvini sul fatto che la cosa di Repubblica oggi mi sembra, per così dire, un aiuto a chi in minoranza oramai nel PD, perché Renzi ha detto Ius Soli, prendiamo atto che non ci sono le condizioni. Poi ha fatto scrivere ai giornali una correzione dicendo no, vedete se ci riuscite. Però il capogruppo, secondo me, quando ha detto non ci sono le condizioni, parlava sulla base di un input politico. Repubblica non ci sta e dice c'è questa intesa governo Vaticano. Adesso io non credo che il Vaticano possa dettare l'agenda parlamentare, ma comunque... Però vedremo. ci sono anche le parole, lo leggevo prima in rassegna, di Minniti, sì, ad Assisi, sì, che prende un impegno. Il ministro Forte su questo tema non si era mai pronunciato, è un, come dire, un fatto che abbia... È un fatto che prende l'impegno, però è un fatto che i numeri del Senato, noi come giornalisti li conosciamo, sappiamo che al Senato è determinante la sinistra, no? Rispetto al PD, quella con cui c'ha problemi, per essere chiari, cioè i senatori che fanno capo, Bersani e così via, che al limite vogliono dare segnali per cambiarla in maniera più estensiva ancora. Io magari mi sbaglio, ma formulo l'impressione che sia molto difficile che passi. Peraltro mi pare che rispetto a questo... Io gliel'ho fatta la domanda a Salvini apposta su questa storia del mezzo milione di prepensionati pubblici e il mega concorsone. Guardate, cari ascoltatori, che è una cosa senza precedenti anch'essa. Tante cose sono senza precedenti. Un ex premier che parla di golpe e propri danni. No, c'era precedente Berlusconi, adesso lo fa anche Renzi. In questo devo dire, sembrano fatti per intendersi. Mi è piaciuto Gentiloni questo fine settimana, che ha detto no, un ex premier non parla di golpe se non ci sono prove evidenti di complotti di pezzi dello Stato contro di loro, invece loro ne parlano. E senza precedenti anche questa storia di prepensionare mezzo milione di dipendenti pubblici per fare un mega concorsone a seconda delle qualifiche. No, un unico mega concorsone è una promessa elettorale sibaritica, scassa conti, al cui confronto quelle di Berlusconi, tanto criticate, erano roba da educande. Cioè, quello che mi preoccupa, Luca, cari ascoltatori, è che veramente stiamo andando molto, molto male a una campagna elettorale in cui ciascuno avvelenato, la spara più grossa. Ciascuno la spara più grossa. Questa è la Consip, sbaglierò io, ma un carico di tossico che si rivelerà nel tempo, i cui purtroppo confini sono ignoti, ma la cui conseguenza è debilitare ulteriormente la credibilità di ogni istituzione. Se sti partiti, che ogni volta colpiti si lamentano, se sono gli altri colpiti invece dicono viva viva, avessero posto mano a una riforma seria dei confini tra magistratura e politica, sarebbe stato preferibile. Allora, a caso del weekend che ti sottopongo, io lo dico, mi è sembrata una vicenda incredibile, il governatore De Luca ha investito con la sua auto di servizio una ragazza andando contromano in una via vicino a casa sua che è autorizzata soltanto per, autorizzata soltanto per i mezzi di polizia. Ora, questa autorizzazione che diciamo si è dato da solo, da sindaco, da capo dell'amministrazione di Salerno, era stata messa sotto inchiesta dalle Iene. Sentite questa pillola. Vi ricordate il film Il Vigile con Alberto Sordi e Vittorio De Sica? Il sindaco De Sica prima invita il vigile Otello Celletti all'inflessibilità. Tu quando sei in servizio non devi guardare in faccia a nessuno. Poi ne rimane a sua volta vittima. Beh, a che velocità andavo? Non ci ho fatto neppure caso. No? E allora glielo dico io. Lei andava a 65 km l'ora. E alla fine invoca un privilegio e vorrebbe che il vigile chiudesse un occhio. Per 15 km non è mica un caso grave. E questo è il film. Nella vita reale, invece, c'è sta un sindaco che soltanto per tornare a casa con qualche minuto d'anticipo, sto privilegio l'ha ottenuto da avere. E il sindaco. Ed eccoci qui. Allora, era Paolo Calabresi che citava Alberto Sordi del vigile, che ha inseguito poi De Luca, esilarante la scenetta. De Luca non risponde, ma alla fine questo senso consente a De Luca di risparmiare 5 minuti, cioè di dover girare l'isolato per prendere il senso unico alla parte giusta. Sono rimasto molto stupito perché a un anno da questo servizio è accaduta questa cosa. Oscar, che ne dici? Alla fine sulle auto blu, sui piccoli privilegi, un po' ci cascano anche i migliori. I migliori? Può essere, non so se sia il mio giudizio che sia migliore. Mi pare che il personaggio di cui mi stai chiedendo è molto esplicito nel rivendicare a sé tutto ciò che ritiene meglio per sé. Questo è il mio giudizio, non l'ho mai visto uno allinearsi agli altri. È uno che ai giornalisti chiede di stare zitti e di porgere il microfono, quindi lo vedo coerente, cioè, figuriamoci, ha detto di fronte a quello che è avvenuto, io ci posso passare. Oscar, un bellissimo pezzo del Corriere della Sera oggi di Paolo Conti contro, è un po' che stanno piovendo sui giornali, contro gli anglicismi nella lingua italiana. Io devo dire che sono d'accordo con Conti, andrebbero evitati quasi sempre. Perché? Tu sei più tollerante. Come si dice? Cioè, leggo che gli anglicismi sarebbero un'espressione di provincialismo. A me pare il contrario. Cioè, esiste una neolingua comune, universale? Sì, esiste. È un bene o un male? È un bene. Perché? Perché significa adottare espressioni comuni oltre la barriera delle lingue nazionali. Se poi dobbiamo dimenticare la lingua nazionale è un altro paio di maniche. Ma le cose che si usano spesso con termini inglesi dipendono da questo, sono volte a questo, evitano equivoci. Quindi io non sono un purista che dice barbaro traditore della patria se usi la parola feedback. Invece, siccome viviamo in un paese in cui nel dibattito pubblico l'espressione barbaro traditore della patria è tornata a inflazionarsi, a moltiplicarsi e a fare scomunica, ecco, io direi insomma un po' di parole in inglese e così capiscono tutti, e anche allora fuori dall'italiano. Downgrading o declassamento? Ma guarda, per me è equivalente. Il downgrading è il termine che si usa per dire quando le agenzie sul rischio sovrano ci abbassano, sono internazionali, i report sono scritti in inglese, non c'è niente di così straordinario, non stiamo leggendo Dante in inglese invece che nel fiorentino del 300, ecco, quello sarebbe uno scandalo, ma downgrading, che scandalo è, insomma. Allora, abbiamo declassato virtualmente De Luca. Cani e gatti finisce qui. 24 mattino, i cani e i gatti tornano tutti domani. Grazie. Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Vi ha presentato 24 mattino.